cielo questa notte un Van Gogh. Lui sembra un avocado toast, una sparatoria di rose nel letto. Tardi per uscire, per dormire presto. Tra so con l'anima in un Dropbox. Io voglio colmare il vuoto che ho con i piedi nudi sopra la brace. Facciamo la guerra per fare la pace. Cosa vuol dire amo? Forse non ci capiamo. Apparecchiati su questo divano con il coltello e le bacchette in mano. Fai il bravo, fai il bravo. Siamo in e yang ma all'incontrario. Siamo sotto sopra, siamo odi e t'amo. Na na na na, fai il bravo. Il cielo questa notte un Van Gogh. Lui sembra un avocado toast, una sparatoria di rose nel letto. Tardi per uscire, per dormire presto. Tra so con l'anima in un Dropbox. Io voglio colmare il vuoto che ho con i piedi nudi sopra la brace. Facciamo la guerra per fare la pace. Cosa vuol dire amo? Forse non ci capiamo. Su questo tappeto che è fatto di prato non serve un guinzaglio, ma è nella mia mano. Facile confondere, difficile non rispondere. In bella vista nascondere un cuore pieno di polvere. Quello che posso farti non lo sai, e quando l'hai capito bye bye. Ci andiamo domani a dormire presto. Tra so con l'anima in un Dropbox. Io voglio colmare il vuoto che ho con i piedi nudi sopra la brace. Facciamo la guerra per fare la pace.